fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo entrati nella diretta del sabato sera in compagnia delle due ragazze più speciali di questa notte. Grazie. Si può dire così? Sì, assolutamente. Partiamo col nome? Ana, ciao. Con una N sola, giusto? Esattamente. Ana. E poi abbiamo? Alba, piacere a tutti. Piacere a tutti, grandissima Alba. Allora, Ana, il nome deriva da? Il nome di origine in realtà spagnola, ma io sono albanese. Albanese? Esatto. Allora sai cosa ti dico? Sì, vai. Cupa make a pack, cupa poco pack. Bravissima! Cupa poco pack. Fantastico. Anche tu? Sì. Anche tu dall'Albania? Sì. Bellissima, bellissima. Oh, questa estate tu in Albania allora, eh? Sì. Ma in realtà io ci sono già stata. Ah, hai già fatto le vacanze? Sì, in Albania sì. Ah, e tu Ana? Assolutamente sì, io sono stata tre settimane fa. Infatti quando siete arrivate avete portato un'energia e un calore che è da poche, giusto? C'è da dire che però qua si sta molto bene, nel senso che anche il clima è favorevole a questo. È favorevole, assolutamente, vero? Assolutamente sì. Il convento è magico? Sì, sì, assolutamente, molto. Raccontiamo un po' come siete finite qua. Allora, noi eravamo in giro di Senzano, sì, a fare un aperitivo e non sapevamo dove andare a mangiare, quindi ci siamo dette, guardiamo quello che c'è. Sì. Abbiamo trovato una squadra, come chiamo io, di Olceribato, che venivano qua e ci hanno raccontato di questo posto. Ci hanno detto, ma guarda che divertente, venite. Abbiamo chiamato, abbiamo detto, ma sai che c'è, tanto non lo conosciamo, abbiamo visto le foto sul vostro sito, sì, detto, ma sì, andiamo, sembra bello. Proviamo. Sì. Esatto. Ah? Quando siamo arrivati, a parte che al telefono non so chi ha risposto, è stato simpaticissimo. Lui? Sì, siete due ragazze, vi trovo subito posto, quindi anche la simpatia. È il capo, poi, il capo. Anche quando siamo arrivati con te, sì, l'altro ragazzo, questo clima, no, di affettuosità ci è piaciuto molto. Ma raccontiamo cosa ci siamo detti appena visti all'entrata. Esatto. Perché dei ragazzi, no, il un ragazzo ha posteggiato la macchina davanti. Esatto, il buttafuori ha posteggiato un BMW che ha detto potevo parcheggiare l'Audi lì. Mi dice no, assolutamente no. Io col tacco pigra ho detto vabbè, la parcheggio nel prato. Sono arrivata e tu mi hai detto ma noi siamo tutti simpatici. Faccio no, il buttafuori un po' meno. Un po' meno, è vero, ragazzo, è vero, è vero. Però molto bravo. Però faceva il buttafuori a fare quello duro. Esatto. Però io ti ho detto ma ci chiamavi e mi montavi dietro, esatto, dietro la schiena che vi portavo. Esattamente, hai detto ci chiamavi e mi montavi. E mi montavi. E ti ho risposto a casa mia funziona al contrario, sei tu che monti me. Esatto, giustamente, giustamente ha dovuto precisare, vero Alba? Ha fatto questa ragione. Precisazione perché è di dovere. Effettivamente è più. Ha più ragione lei. Ha più ragione lei. Come dare torto a Ana? Mai dare torto ad Ana, giusto? No. Esatto, mai. Perché Ana, dimmi Alba, Ana, dimmi un pregio e un difetto di Ana. Allora, un pregio. Pregio? Oltre alla parenza? Sì, esatto. Ok, respira bene, si vede che respira, sì, respira molto bene Ana. È dolcissima. È dolcissima. Un pregio... Anche se non sembra. È una ragazza è dolce. È una ragazza molto dolce. E il difettuccio? Il difettuccio? Mi sembra. Direi che fa anche troppo per le altre persone che ha il cuore. Ah, è troppo generosa. Sì, ma ti rendi conto che ti ha dato due pregi dovendoci giocare il difetto? Hai visto che amica? Sì, è la mia amica da non so quanti anni, 10 oramai quasi. Sì, ci siamo. Siete amiche da 10 anni? Sì, quasi, sì. Molto. Chissà quante avventure avete fatto. Guarda, ne parlavamo giusto a cena prima, dicevamo, ma tu ti ricordi quante cose abbiamo fatto, ma. Cioè vi tantissime. Siamo finite in ovunque. Io ricordo un capodanno, possiamo raccontarlo, dove sì, senza dire nomi e tutto. Esatto. Si può raccontare. Siamo finiti in un capodanno dove le dico guarda, era dicembre, 1000 spese, l'affitto, poi abbiamo comprato casa entrambi, però eravamo in difficoltà, no? Le dico, sì, cosa facciamo? Lei ci siamo guardate, cioè accorto di insomma di soldi. Siamo finite una serata privé del QI con Mario Balotelli, politici vari, e non sappiamo, cioè tramite amicizie, quindi diciamo, ma dai, follia. Infatti con lei ho fatto tutte le mie migliori avventure. Siamo partite alle 4 per andare a Firenze, di tutto. Ma di colpo così, cioè sì, avete detto sì, andiamo a Firenze e siete sì, partite? Sì, noi siamo così, sì, anche perché io ho un... Se lei mi dice partiamo, io sono già pronta, ho già le valigie pronte. Partiamo, subito, così. Subito. Ah, tu sei... Allora, lei è quella che ha i colpi di testa e tu la segui sempre? No, ma allora, per quanto riguarda... Sì, io sì, sono peggio per colpi di testa. Ah sì? Sì? Anche se apparentemente sembra più tranquilla, no, Alba? No, Alba, se le sale l'idea di mangiarsi la Fiorentina, si sveglia con la Fiorentina, ti guarda già lo sguardo di minaccia, ti dice io voglio la Fiorentina, tu non è che le dici andiamo a Bergamo, macchina Firenze, cioè direttamente lei ti dice voglio bere un vino Piemonte, cioè vuole un Barolo, si va in Piemonte. Noi siamo così. Non ci serve. Sono una buon gustaia di buon cibo e del buon vino. Voglio una paella, vado in Spagna. Cioè, se... mi piace questa cosa. Cioè, comodo, tra l'altro. Il delivero voi vi fa una pippa proprio. Sì, cioè, perché il delivero è l'Audi. Cioè, o la mia autista privata, meglio di così, mi porta ovunque. Mi porta ovunque, Anna. Sì, perché sono un po' viziatina, un po' tanto. Ti mi vizio. Anna, me l'hai viziata? Sì, e se lo merita tutto, guarda. È veramente un'amica. Quindi... Ma è viziata o viziosa? No, è viziata, non è viziosa, è molto brava lei. È molto brava. Invece la birichina del gruppo sei tu? Oddio, potremmo essere un 50-50. Sì. Ah, sempre 50-50 lo stesso? Sì. Secondo me ci compensiamo molto bene. Entrambe single, giusto? Esattamente. Motivo per cui siamo single, possiamo dirlo. Perché se io mi devo svegliare e andare da sola a Firenze perché ho voglia di una bistecca e un uomo mi dice, però che noia. No. È lontano. È lontano, tanti chilometri. Sì, è lontano anche da Milano a Bergamo, da Brescia a Bergamo. Ci vediamo a metà strada. In quel caso mi chiedo se la vagina la lascio a casa perché tanto che mi serve. Sì, esatto. Perché si stacca? Si può, non pensavo sì, no, io. No, non la porti, è come se non l'avessi. Ma quanti cuoricini! È vero, avete stregato il convento stasera e non solo per quella cosa, ce l'avete portata giù, sì, per forza. Stasera c'è, infatti è quello anche che ha creato questa magia intorno a voi. Comunque, quindi agli ometti che ci stanno ascoltando da casa, obbligo, ecco, se vogliono il Galateo e non il farsi bon questi problemi stupidi. Galateo e bon ton. Esattamente, sono d'accordo. Un altro requisito che deve avere un maschio per Anna? Essere alto, sicuramente alto, intraprendente, brillante. Alto, intraprendente e brillante. Sì. Alto sia in piedi che sdraiato? In tutti i casi, esatto. Come sempre 18 non si guarda niente. Beh, dai. No, 18 in generale? Sì, così. Okay. Pur parlare, no, esatto. Cioè, sembra anche non abbastanza. No, sei abbastanza. Non è pretenzioso al massimo. No. 18 è accettabile, sì. È nella norma. Sì, no, va bene. Tu, Alba, hai qualcosa da aggiungere a queste caratteristiche? Aggiungerei intelligente. Ulla. Ma quello amore per assodato, cioè, se no che prendiamo. Allora, se può essere alto, bello, tutto quello che vuoi, ma se non riesci a dirmi una frase per intero, per me vali zero. Quella, attenzione. Caro. Cioè. E ne ho conosciuti di persone così. Ah, le hai conosciute? Sì. C'è stato un colpo di fruscio totale. No. Non so da dove arriva. Forse. È quello. Ma non lo so. Adesso. Allora, è successo che il microfono di Anna, essendo abbastanza vicino alla tua bocca, è andato in fibrillazione e ha creato questo. La prima volta che succede, ma Anna ha anche questo potere. Cioè, siccome il microfono rievoca anche una. Così. Per sillogismo. Non facciamo gesti equivoci. In maniera metaforica, potrebbe ricordare qualcosa. E il microfono ha avuto anche lui una certa. Cioè, si è turbato. Un attimino. Sì. Anna riesce a turbarmi anche i microfoni, oltre che tutti i clienti del convento stasera. Hai visto? Sono innamorati nel senso buono, ovviamente, tutti, quindi noi ci siamo divertite un sacco. Sì, tantissimo. Abbiamo parlato con chiunque, ci siamo proprio divertite, bello. Infatti siete le paladine del locale, perché vedo ogni tanto che passa un gruppo di amici, un altro gruppo di amici, vi fanno cuoricini, vi fanno gli applausi. Sì, perché abbiamo fatto amicizia con tutti, guardalo. Sì. Quelli sono gli amici di Nicola di Bari, fanno... Simpaticissimi. C'è uno, quello lì è bravo a fare Lino Banfi. Guarda, mi hai dato un bacino, ti ho visto, va che ti sposi. Che non ti sentono da fuori, Però sono bellissimi, cioè, nel senso che sono davvero molto educati. Posso dire questa cosa che mi ha colpito, non sono mai troppo nell'invadere l'altra persona, quindi si divertono con lo stile, col giusto, senza mai essere quel troppo che stropia. Esatto, che dà anche fastidio, quindi complimenti, perché è un ambiente socievole. Non lo dico perché sono qua in radio, lo dico perché sono qua e Luna, sono ancora qua e mi sto divertendo. Sì, perché qua praticamente è come un mondo fantastico. Sì, ma veramente dissociato dalla realtà. Cioè, tu quando varchi la soglia del convento dove c'è il cancello e inizi la salitina, è bellissimo. Inizi a entrare in un mondo fatato. dove la realtà non esiste. Sì. Ah? Mi piace come immagine? Sì, sì, ma perché sì, è vero, cioè è proprio bello, si sta bene. E poi si diventa amici facilmente, non c'è nessuno che se la tira, tutti ti allegri. Bellezza, sì. È bello, è un bel posto per socializzare. Guarda, anche le ragazze vi vogliono bene, cioè, tra l'altro. Sono super, cioè, avete stregato uomini e donne. Sì. Guarda, cuoricini a tutto spiano. Sì, tutti i cuoricini. Cioè, un successone. Che dolci. Un successone pazzesco. Abbiamo fatto ballare anche le donne, perché io ho notato che gli uomini sono più spavaldi, no? Ballano, fanno, a parte dei costumi, nell'essere indecenti così meravigliosi. Le donne invece un po' più restie, ecco, quindi questo velino un po' più sul lì, e quindi abbiamo coinvolto un po' queste donne a ballare, sì, perché il loro addio al nubilato ed è importante, voglio dire. Quindi possiamo dire ai clienti che ci stanno ascoltando da casa che vi rivedremo assolutamente spesso. Sì. Quindi se vogliono vedervi dal vivo devono venire qui al convento. Assolutamente sì, verremo più che volentieri, perché abbiamo mangiato molto bene, le cameriere sono gentilissime, quindi ci siamo trovati bene con tutti. Caspita, ma farvi complimenti. Ma che roba, cioè. No, veramente. Fantastico, no? Sì, bello, mi piace, sono contento di questa cosa. Ok, le vacanze le avete già fatte? Andrete ancora da qualche parte? Io sì, vado in Liguria, poi a Monte Carlo e Alba. Io ho già fatto Ibiza per una settimana e poi ho altre 2 settimane che farò un po' montagna e poi un po' in giro di... Ah, quindi basta perché vacanze insieme, non vi staccate? Io quest'anno ho deciso di fare la vacanza con la mia famiglia, nel senso di andare a trovare i miei genitori, perché io sono sempre in giro per il mondo, quindi quest'anno ho detto vabbè, sto in Italia. Ma per lavoro o per... No, perché a me piace proprio viaggiare. Ti piace viaggiare? Sì. Noi ogni tanto combaciamo gli orari, andiamo insieme, quindi vediamo, ogni tanto io vado con allora il fidanzato o... da sola, dipende, non ho... Possiamo dire il vostro profilo social, se sì, volete, certo, se qualcuno così magari vi vuol seguire? Assolutamente sì, il mio è Ana Nina F, sono circa 30.000 follower con la spunta blu, quindi ciao amici, siete tutti postati, mi dispiace per le mogli. Quindi certo, lo ripetiamo, Ana Nina. Aspetta, ecco, no, perché se non capisco io magari anche da casa non capisco, sì, quindi è importante, Ana, A-N-A. Sì. Nina N-I-N-A. Esatto. Ana Nina F. Esatto. Come capiamo tutti, esatto, ce lo teniamo bene in testa, sappiamo, esatto. Ana Nina F. Basta. Ana Nina F. Riesco io in automatico, perché appena scrivi Ana Nina esco io, quindi. Ok, quindi ti possiamo seguire anche per i viaggi e tutte le, sì, cose. Volentieri, ho fatto un tour di Capoverde 2 anni fa che ho penso di aver pubblicizzato meglio io la città che non so chi. Ma ti posso chiedere una curiosità, sì, su Capoverde, perché ho sentito che la meta di turismo sessuale femminile, è vero questa cosa? Assolutamente sì, io ero stupita, perché la fa ridere la questione, ma tu vedi un sacco di ragazze di colore, quindi chiare, di carnagione, con questi ragazzi mulatti, no, del posto, che sono anche molto carini, ma con veramente, cioè, quando li guardi capisci che non c'è l'amore, ma è una questione veramente economica. Però ti dirò, c'è una libertà nel mondo, quindi se loro sono contenti, finché sono contenti tutti, bravissimo, io... Però è molto carina da vedere, sicuramente non è Santo Domingo, ecco, sicuramente, però è bella, okay, è particolare, rilassante, io l'ho vista, ho fatto i viaggi in quota, un sacco di experience, no, come si direbbe, da fare, quindi merita. C'è tanto vento, vero? Sì, però quello, guarda qua, cosa succede? Ha fatto un cuoricino. Ah, anche sul vetro, cioè, ma c'ha gli occhi innamorati questo. Io ho dei fan. Questo è cottissimo questo. Sì, ha fatto le foto prima come mi ha toccato a mezza gamba, ciao amore, cuoricino da te. Guardali, Madonna, che roba, a me non mi caga nessuno praticamente, però va bene, noi abbiamo dei poteri, e voi avete questi, come dire, guarda, vuoi che risponda? Ah, ecco, pensavo, ecco, era un gesto. Posso per rispondere? Puoi rispondere al fuoco, aspetta, dove è andato? No, ma non può entrare. Non può entrare, se no sarebbe molto pericoloso. No. Puoi rispondere al fuoco dalla distanza? Però... Eh sì, allora gli amici da casa non vedono, però diciamo che da fuori un ragazzo si è un po' scapezzolato, diciamo così, e tu hai risposto al fuoco con una strizzata, esatto, autonoma, esatto. Ecco, così almeno si descrive un po' la situazione. Quindi mi sono perso via, eravamo a Capoverde. Okay. Amore, ma questo, guarda quanti cuoricini. Ecco, questo da fuori invece ha un bicchiere in bocca perché sta sbavando e il bicchiere raccoglie la bava direttamente, ecco, così raccontiamo quello che sta succedendo qua intorno, perché sembra quasi di essere in un acquario e siamo assediati dai pesci, ecco, cioè I pescioloni. Ma questo soffre di tachicardia da quando l'ha conosciuto. Esatto, secondo me è infarto. Eh sì, sarà quando uscite da qua, è pericoloso però. Guarda, ma... quando usciamo da qua prima di andare, perché noi volevamo stare, staremo ancora un pochetto, poi abbiamo un'altra tavolata di Addio al celibato al Coco Beach che ci ha invitato, e andremo con dei veneti simpaticissimo che ci hanno placcato in mezzo a una rotonda, li abbiamo amati. Andiamo a fare un salto lì. Siete richiestissime prima stasera. Di andare salutiamo tutti i ragazzi che sono stati super carini con noi. Assolutamente, assolutamente. Avessimo bevuto, credimi, tutto quello che ci hanno fatto e abbiamo bevuto, oggi probabilmente non uscivamo da qua in piedi. Sì, confermo. Sono stati tutti molto brillanti. Anche loro mi sa che non escono in piedi, vedendo no. Le facce in questo momento. Quello, anche questo col coltello esatto. Tra i denti. Meraviglioso. Fantastici, si veramente. Anche, incredibile. Eh sì, sono cose che capitano. Ragazze, voi non vi siete accorte, ma noi è un quarto d'ora che stiamo parlando. Cioè, vi è sempre passato un quarto d'ora? No. È incredibile. Di solito facciamo 5 minuti, ma è troppo interessante ascoltarvi. Noi quindi... ti ringraziamo. Grazie mille. Voi lo capite? Niente, dopo cercano di entrare, non possono. Però credo che qualcuno voglia entrare per raccontarsi, sì, sì. Quindi come giusto avete. Lasciamo spazio anche agli altri, tanto vi rivedremo ancora, quindi in altre puntate scopriremo le nuove avventure di Anna e Alba. Giusto. Noi allora chiederemo il numero sicuramente al proprietario, così quando prima di venire, magari un giorno prima o qualche giorno prima, gli scriviamo. Sì, di solito che... bisogna prenotare, perché sì. Solo stavolta ha fatto un'eccezione perché ha avuto l'intuito. Sapeva già. Ha detto sono due gnocche. Grazie mille. Grazie. E sono super simpatiche. Che fai? Ah, quello. Perfetto, l'esame della vista. Ecco, con una destra e una sinistra, ecco, le riconosciute, si assomigliano, sono gemelle. Ok, contento che hai rivisto. Però sono carini da morire, quindi le due io gemelle. Mi diverto un sacco. Anche io, anche tu Alba? Sì, tantissimo. Sì. È sempre così. Che mi stai facendo dei gesti equivoci, adesso. Si è offeso perché gli hai mandato un bacio. Attenzione, ecco, sembra voglio cantare o... Cosa sta facendo? Non lo so, misto tra un texano e un cantante. Purtroppo abbiamo anche questi problemi. Sì, c'è anche questo. Alba, vuoi salutare qualcuno? No. Saluto tutti quanti e grazie per averci ascoltato. Wow, bravissima. E ricordiamo che Alba non voleva dire neanche una parola. Esatto, io lo vorrei ricordare. Ricordiamolo. Ok, grandissime. Grazie ciao mille. Anna, ciao Alba. Ciao. Grazie.